Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Bentornati anche questo sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. E questo sabato sera è il turno di Basement Records. Avrete conosciuto magari l'intro, non è la solita sigla di sempre, che se vi ricordavate mettevo sempre la futura sigla di Futurama. Invece stavolta ho messo il lato B di questo 45 giri, che è sempre molto concreto in stile Pierre Henry, però questa era Too Fortish, sempre dell'Esiper Sound, 1969. E puntata speciale, nuova sigla, perché puntata speciale, perché insieme a me stasera, in questo sabato sera su Basement Records, come ospite speciale di questa trasmissione abbiamo la Virgi, e le diamo qui il benvenuto specialone questo sabato sera. E per questo io so il B-side, capito? Come tipo la serie sigla speciale è stasera, chiaro, eh? Grande, sì, grazie. Questo B-side sono onorata, perché Pierre Henry è uno dei miei così capisaldi. E sì, in prestito, sono in prestito, ci ha portato un bel pacco, sì, di regali. Bene, dai. Allora, in prestito dal repertorio Pacchi e molti regali, molto diverso della fuga del gatto. E sì, sono venuta sì in aiuto, in soccorso, non che abbia bisogno d'aiuto, ci mancherebbe. Come però. No, accidenti, assolutamente no, soprattutto ha portato no anche un defibrillatore che non si sa mai con tutto quello che è successo. successo fino ad ora, veramente, per registrare queste puntate. Ma allora, il mio contributo è in realtà veramente sottratto all'archivio di famiglia, perché, come giusto in Basement Records, come giusto che perché sia, lo spirito della trasmissione è quello, è ben scavare vecchie talpe e quindi in realtà il mio contributo è spiegare i vinili ai parenti, esatto, soprattutto al babbo nel mio caso, che anzi ringrazio, anzi e quindi mi autosputtano, perché in realtà non lo sa che sono andata a frugare nella... oi. Beh, vabbè, tanto è così, prima o poi veniva fuori. Ci aspetterà, sì, fuori da sicuro, Wombat di sicuro. Sono un ragazzo un po' così, un po' vendicativo, però sì, sono andata un po' a frugare negli archivi, insomma non ho tirato fuori ancora il meglio, devo dire che per quello aspetto un po', però insomma qualche cosa ho portato per contribuire a questa fantastica trasmissione. E tra l'altro ci hai portato non dei 45 ma dei 33, chiaro, 12, chiaro, pollici, sì, che degli ovviamente album, direi, vecchia scuola, veramente vecchia scuola. Sì, questi sono vecchia scuola, veramente, come original, ci piace a noi di Basement. Sì, questi sono proprio quelli da mettere nella bustina, da portare sotto braccio, quelli proprio da collezione. E quindi niente, mi sono allontanata dal mio repertorio, così la Mario ogni tanto mi libera dalla fuga del gatto, mi apre la porta della caverna e mi fa e uscire. Ti fa uscire, meno male, chiaro, dai. Sai, gatte, così per passeggiare un po' così in giro, per sgranchirti un po' le zampe, e quindi sono venuta mi sono intervenuta, non me ne voglia la mia collaboratrice, ma anzi penso sia contenta così di liberarsi un po' di me, e così ho portato un po' di dischini da aggiungere alla tua già ben nutrita scaletta di oggi, in realtà. Scaletta di oggi, ma ovviamente essendo una bestia come sempre si partirà con uno dei miei, vedi, proprio da cavaliere. La cavalleria è morta, lo sappiamo tutti. Invito, però si mette i miei di dischi. È chiaro, certo, è ovvio. Ti invito a cena, però cucini te, porti te, è così, è giusto, ci sto. E io comincerei con questo album del 1969 di questo gruppo che si chiama, gruppo inglese di sei elementi che si chiamano Blue Mink, che io sinceramente prima dell'ascolto di questo vinile, ti devo dire la verità, non li conoscevo, poi ascoltandolo ne valsa la pena effettivamente. In uno, sì, dei rimasugli di Stefanone a 45 giri, e io sentirei subito questa, che è il singolo che fecero uscire nel 1969 nel loro primo album, e questo è proprio il lato A di questo singolo dei Blue Mink, in questo caso si chiama Melting Pot 1969, edito su Philips. E ora partiamo con Blue Mink, Melting Pot. Up in black skin, add a touch of blue blood, and a little bitty bit of red Indian boy. Curly black and king kiss, mixed with yellow chinkies. If you lump it all together, well, you got a recipe for a get along scene. Oh, what a beautiful dream. If it could only come true, you know what we need is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got. I keep it stirring for a and the gurus. You got the Beatles or the sun god. It's true. Well, it really doesn't matter what religion you choose. No, no, no. Ooh, men can lady pay for You know the living could be tasteful. We should all get together in a loving machine. I better call up the queen. It's only fair that you know what we need is a great big melting pot. Questo era il lato B, il loro singolo del 1969, ricordo i Blue Mink, questa era Melting Pot, molto pop direi, proprio da classifica. Vabbè sì, un po' il periodo. In realtà loro hanno avuto diverse hit in classifica. Se hanno avuto vita breve. Vita breve ma intensa, perché appunto leggevo un po' che loro hanno addirittura sei hit un single, sestetto. Come dire, sì. Era un sestetto, sì. E hanno avuto anche almeno sei hit, canzoni, diciamo, nella top 20 inglese. Poi sai, gli inglesi ci tenevano sempre a fare le classifiche. Giustamente. Però appunto, come dicevamo, non hanno avuto lunga vita, ma nomi importanti, appunto, sì, il chitarrista Alan Parker. Molti erano session man che poi hanno continuato la loro carriera registrando in altri gruppi. Erano fondamentalmente un gruppo di session man da studio si sono riuniti. Aveva unito le forze e quindi la qualità comunque è alta. Certo. Qui dicono appunto che la band debutta appunto con questo singolo, Melting Pot. Questo è stato proprio il singolo d'esordio del primo album del 1969. Nell'ottobre del 69, sì. E questo invece che andiamo a sentire. Ecco, io vorrei. Appunto B-side. Per questo era proprio il lato B scritto da Alan Parker, esatto. Tra l'altro, per farvi capire appunto la differenza, perché. Questo sì è un brano molto da classifica, però quando sono andato a sentirmi il lato B, cioè non conoscendoli, cioè, ma proprio stupito, perché è completamente un altro suono. E tra molto l'altro più rock, più psichedelico. Finì anche questo al numero 3 nella UK single chart. Sì, infatti ha avuto successo anche questo. Forse ha avuto più successo il lato B, sì, e direi probabilmente, magari dicendolo postumo, giustamente. Beh, anche una volta il successo corrisponde alla qualità. Giustamente direi, perché effettivamente il lato B a me è piaciuto molto di più del lato A. Completamente un altro genere, Però ho sentito un po' cos'è questa Blue Mink, questo omonimo sempre del 1969, e qui ovviamente a Basement Records, sempre su Radio Wombat, Blue Mink. We'll be right back. Direi decisamente un altro paio di maniche questo Lafobia, roba. Bello, veramente. Oltre a essere totalmente strumentale, ma poi proprio blues rock psichedelico. Molto, molto bella questa cavalcata blues rock. Sì, proprio un altro fa molto fine anni 60, Si fa molto Alan Parker, infatti è la sua, non a caso. Sì, sì, lì Marco si sente proprio. Sì, lì proprio si sente. Come diceva un mio amico sempre, la chitarra quacqueo. Quella è il quacqueo. E poi, che dà vita poi ai vari quacqueismi, che poi se portati all'estremo, ecco, diventano un po'... Che parte tutto dal ceppo del wawa, mi sa. Cioè, un po' il quacqueo è il proprio... Il ceppo è proprio il wawa. È quello lì. È l'onomatopea proprio del suono. Gli anni 70 è proprio il quacqueismo. Bene. Proseguiamo invece e mettiamo questo grande 12 pollici. Non c'è neanche bisogno di mettere i centrino costruito in cartone. Senti un po' più piccolo quando maneggi quelli lì, lo so, è un problema di dimensioni. Però sì, quindi andiamo con un'altra roba. Era la terza? Sì. Perché no, due ne abbiamo messi e no, ma era la terza canzone dell'album. Well, a differenza sì. Ovviamente dei 12 pollici, è chiaro che i 33 contenendo più canzoni si possono anche leggere, cioè si vede la fine di una canzone dall'altro. E quindi direi che questa è la prima, la seconda e questa è la terza. Sì, e comunque poi quasi sempre sul centrino ci sono la scaletta, ci sono sì, certo. I pezzi con i numerati, quindi dovrebbe essere. E direi che intanto annunciamo qua, ne parliamo, quindi... Sì, allora questa è The Manhattan Transfer, gruppone della Madonna. Storico. Su Atlantic. E facciamo sentire la terza canzone dell'album, che è My Cat Feeling the Well. È il 1984, ovviamente sempre a Basement Records su Radio Wombat. E questa era My Cat in the Well, Well, Well. Vabbè, era classicone. Sì, proprio. Questa fatta veramente da tutti, veramente fatta e rifatta e rifatta. Molto carina, molto usata spesso anche nei cartoni animati, no? Nei disegni animati. Sì, come colonna musica. Si addice, perché, come vabbè, tipo di musica. Il gatto, perché vabbè, il gatto è chiaramente l'animale jazz per eccellenza. Assolutamente. Il simbolo, anche un po', anche se vabbè, io me lo rivendo, noi ce lo rivendichiamo per la musica là. Ma in realtà probabilmente è più noto come è più jazz che classico, però dai, ci sta bene in tutti e due gli ambiti. Sì, poi appunto, poi uno ce lo forza e va bene, ce lo lega come e ce lo fai stare. E ce lo facciamo stare. Manhattan Transfer, questo era proprio dal vinile, dall'originale. E, è appunto famosissimo gruppo vocale statunitense, fondato nel 69 da Tim Hauser insieme alle cantante Laurel Massé, e dal 98 addirittura ormai storici, fanno parte della vocal group Hall of Fame, quindi sono entrati proprio nella storia del rock, così consacrati, ecco, come fanno in America, allora gli piace, sì, insomma, fare le transfer, sì, eh. E quindi questo, che è però proprio un così classicone, ecco, uno dei pezzi ricantato e reinterpretato, sì, da tantissimi, e poi è proprio cioè, in tantissimi quasi ambiti più musicali diversi. Sì, veramente vanta non so quante cover, quante imitazioni veramente. E beh, i Manhattan Transfer, a differenza invece appunto, come si diceva, del gruppo precedente che abbiamo fatto sentire, hanno avuto un grande successo e soprattutto una lunghissima carriera, e tuttora credo addirittura, non so se si esibiscono, sì, però comunque sono... Questo è il disco, tra l'altro, Bop Doo Wop è del 1984, quindi qui siamo già nella fase anni 80 dei, esatto, Manhattan Transfer. Infatti, perché il primo album era del 71, addirittura, sì. Si intitolava, quindi quasi 15 anni prima, quindi insomma, questo è proprio, forse questo è anche un po' il momento di fama, sì, di picco, in perché cui magari il successo era già arrivato. Beh sì, anche perché probabilmente rispetto magari alla fine degli anni 70, già a metà degli anni 80, forse un po' per diffusione, un po' per, sì, forse per genere che andava quasi di più rispetto anche alla fine degli anni 70, sì, no? Sì, cioè sì, jazz, sì, ma anche, ma così come il blues poi dopo nella metà degli anni 80 che viene ripreso, riscoperto, no? Riscoperto, ripreso. Insomma, la musica, come quasi tutte le forme d'arte, è un ciclo che va, sì, a riscoprire sempre, cose, sì, di una quarantina di anni prima. Sì, non sempre in maniera sì, vabbè, ecco. Maniera di risposta, anche sapute reinterpretare, non è sempre positivo, però sicuramente loro appunto fanno questa scalata al successo piuttosto veloce e che dura appunto, e diventano un po' un'icona, un po' un simbolo del jazz, quello in questo caso qui quasi swing, quasi sì, sì, quasi è molto più molto che di quelli, ecco, anni, cioè, molto jazz anni 30, sì, ecco. Questo non è appunto, è lontano dal jazz sperimentale, da tutto quello, no, che sarà, cioè, molto, è molto swing, questa è proprio così vecchia scuola, anche grazie a questa tecnica della vocalità, a queste bellissime voci che avevano, questi canoni, esatto. E che quindi ce ne facciamo sentire, sì, un'altra? Farei sentire un'altra. Farei sentire l'ultima di questo lato A, di questo 33 giri. E in questo caso, se non mi gira la testa a leggere il centrino, sì, perché abbiamo perso la copertina, dovrebbe Babbo essere Sappilo, già perso. How high is the moon? How high the moon? Yeah. Che è l'ultima del lato A di questo album dei Manhattan Transfer, ricordo, Bop Doo Wop dell'84, ovviamente sempre su Tonight, anzi no, su Basement Records. Madonna, questa cosa è proprio freudiana, lo sapevo, aiuto, beccatevi Manhattan. Thank you. Questi erano i Manhattan Transfer con How It's the Moon. Molto molto bello, a me, vabbè, a me molto piace. Bello, sì, mi sì, piace, assolutamente. Mi piace tutta, mi piace così proprio il sound, il tipo di così di reinterpretazione, anche perché loro hanno fatto spesso anche cover reinterpretandole appunto con questo, in certi momenti sembrano quasi doo-wop, con sì. questo con queste voci che si intrecciano. Sì, c'hanno, perché appunto leggevo che nonostante il fondatore sia ormai deceduto purtroppo, e anche la cantante Laurel Massé passò dei periodi in cui insomma non ha cantato, poi però in realtà con una formazione un po' diversa, però sono ancora in attività, e chissà, qualche fortunato magari è anche riuscito a vedersi. Ci sta che abbiano anche qualche anno adesso. Sì, ci sta, perché insomma da 69 comunque di sicuro portati meglio di me, e sentite, a sentire così. E comunque questo era proprio così un tuffo nel jazz, quello proprio old school, quello un po', sì, un anche po', se alla fine sì, cioè è dell'84, anche se sì, però il titolo del come... disco è doo-wop, sarà stato sì. proprio una dedica. Sì, anche tuttora non lo potete vedere, ma anche la copertina che ci siamo già persi è tutta un po' anni 40. Non lo dire che l'abbiamo già perso. No, poi... cioè, alla fine lo spazio è delimitato. Ma riesco a perdere anche le copertine anche qui dentro. Però prima che la perdessi, era una bella copertina anni un po', appunto, un po' anni 40, un po' jazz. Un po' appunto questo jazz che alla fine è in quel momento proprio figlio dello swing, quasi, insomma è più vicino allo swing che al jazz, quello come intendiamo noi, quello un po' che verrà poi. Quindi proseguirei, si va alla prossima, addirittura maestro, accidenti, mi fai venire in mente di cosa potrei essere maestro. No, va bene, però qui sicuramente mio maestro, perché lei mi insegna. E facciamo una cosa, visto che mi bacchettano sempre, infatti mi hanno fatto diventare delle dita che sono grandi come salsicce. No, capito, stroncata la carriera. Poteva essere un ricordiamo musicista. Ricordiamo un po' i nostri canali, visto che ricordiamoli, se no i nostri ascoltatori lo faccio fare sempre alla Mari, e lo faccio fare sempre a Bloody Mary, ma va bene, oggi me l'accollo io. Fatelo staccollo, dai. Sì, dai, una volta, non lo faccio mai, sono tremenda. E che sono molto poco social, quindi però il Wombat è social e ha il suo ovviamente sito su cui ci potete ascoltare in streaming, wombat.noblogs.org, il suo Twitter, che però da qui twitter.com/radiowombatfi. Sì. Grazie, mi ha salvato perché non lo vedevo. Il suo faccialibro, che è me lo dica lei sempre, radio-wombat-firenze, anche se non mettete i trattini, sì, lo troverete uguale, bene, siate fiduciosi. E se volete comunicare con noi, lei così ci piace per, di più la sì, posta, la nostra amata mail, vecchia scuola, se volete darci dei consigli, richieste, infamate, sì, complimenti, insomma uno li prende sempre volentieri, perché no. Quindi posta wombat@insiberia.net, giusto? Direi proprio di sì. E direi che ci possiamo aspettare un salto nel pop rock olandese di inizio anni 70. Bene, mi preoccupavo, infatti, sì, ero preoccupata. Dopo, appunto, no, ci vuole così. Poggio e buca, dici. Dopo Manhattan Transfer è giusto mettere qualcuno che probabilmente neanche i loro genitori e loro stessi probabilmente ricordano di aver fatto. No, infatti. Non anticipiamo niente, no, facciamoli sentire così, e poi, al buio, vai. Sì, sì. E poi si dice proprio l'ascolto al buio. Vai libero. Bang, ovviamente Radio Wombat. Mara, I'll freak you right out. con questo finale un ci po' illumini, così, per eh? Favore, perché vogliamo sapere. Allora, volete sapere, questo è un disco del 1970 precisamente, e sono i BZN, che è un gruppo olandese assolutamente misconosciuto, come dicevo prima, probabilmente forse non se lo ricordano neanche loro di aver fatto questi dischi, però avendolo ritrovato nei sacchetti di Stefanone, che ringrazio, e Stefanone facendo più che altro le classifiche, c'è stato un periodo, diciamo verso l'inizio degli anni 70, fine degli anni 60 in Italia, non so per quale motivo, però i gruppi olandesi entravano in nella classifica italiana. Infatti ho ritrovato, ora non tantissimi, però diversi 45 di gruppi pop rock olandesi, e evidentemente avevano avuto un certo successo in quegli anni in Italia. Effettivamente questa Mother You Can See Me non era niente male. Niente da invidiare ai gruppi americani o inglesi del momento. No, infatti, insomma. Guarda... Beh, il sound poi era quello. Sì, però ecco, magari dall'Olanda non me lo sarei... Anche perché ora l'Olanda produce metallari... Musica elettronica, sì, però esatto. Musica così magari non me l'aspettavo poi che arrivasse a quei tempi. In Italia, perché appunto alla fine degli anni 60, inizio anni 70, avere un disco di importazione non è come adesso, no. Che prendi, clicchi sul computer e del giorno dopo ti arriva un'edizione limitata solo per il mercato neozelandese e ti arriva direttamente via posta. Esatto. Prima all'epoca, se non aveva distribuzione italiana, non lo trovavi. Non e lo comunque trovavi. In generale, a parte le cose più famose, dovevi andare proprio nei negozi specializzati, aspettare. E magari c'erano solo delle grandi città, anzi c'erano solo nelle grandi città, c'erano quindi dei lunghi tempi d'attesa. Ora magari questi erano sicuramente sono finiti nelle classifiche italiane pop in quegli anni, e quindi è per questo che ce lo siamo ritrovati, sono arrivati tra le a mani. Noi reperti. Bene, questo Back to the Future, quindi ci è piaciuto, e proseguiamo. Sì, con io farei un altro partire pezzo. La prossima, perché anche questi veramente spacca. Non conoscevo neanche loro, però non anticipiamo tanto. Però no, è un gran pezzone anche questo. E questi sono i Fat Mattress con Naturally. Ovviamente sempre su Radio Wombat, non vi dimenticate. Chiaro. Erano i Fat Mattress. Ah sì, gruppo magari non conosciutissimo. No, però come dicevi te, dalla storia veramente. Mi sono tirato il microfono nel naso. No. Che devo fare? Devo andare a prendere il cerotto. Non sono impazzito completamente. Non ti fare male, no. Ma non... E ora c'ho l'uccicone, però. Madonna, va bene. Mentre qui c'è le così automutilazioni. Mentre mi sto commuovendo profondamente. Sì. Ora si tira fuori la cassettina del pronto soccorso, perché veramente siamo a dei livelli. Insomma, questi Fat Mattress era un altro gruppo con. Formato da diversi turnisti, tra l'altro. Con una storia veramente. Con una storia notevole, anche se alla fine il gruppo è durato solo un paio d'anni, perché è durato, credo, dal 68 fino al 70, se non mi sbaglio. Sì, leggevo nel 70, quindi si sono separati. E questo, appunto. Un anno, addirittura, due anni. Sono durati due anni, hanno fatto un paio d'album, però. I suoi membri erano dei session man di tutto rispetto. Infatti il chitarrista e cantante Neil Landon seguiva la Jimi Hendrix Experience in tour in giro per il mondo, e faceva da chitarra di supporto. E infatti il periodo di massimo splendore dei Fat Mattress è stato quando, durante il primo tour americano della Jimi Hendrix Experience, i Fat Mattress facevano appunto a Jimi Hendrix la band di apertura. L'apertura, proprio perché alcuni di loro il chitarrista suonava praticamente tutto il concerto. Due volte, perché ovviamente, certo. Pubblicarono due album, Fat Mattress e Fat Mattress 2. Quindi, esatto, non è che si siano sforzati tantissimo in fantasia. E appunto leggevo che addirittura ci furono vari cambi, tra cui anche Martin Barr fu brevemente membro di questa band, e lasciò per rimpiazzare Mike Abrams nei Jethro Tull, quindi insomma, ecco, così. Non era che erano proprio portati dalla fiena, no, infatti c'era proprio gente un po' che se la cavava. E la prima appunto, come dicevi te, esposizione pubblica, insomma, la prima ondata così di successo pubblico fu proprio all'apertura del tour statunitense di Jimi Hendrix, in cui appunto facevano da supporto, e alcuni di loro poi suonavano anche dopo con lui. Non mi ricordo se era il 69 che è l'anno anche del primo disco prodotto da Polydor Records e rilasciato. Ma infatti durarono fino al 70, l'anno dopo si sciolsero. Sì. Però insomma, anche se abbastanza misconosciuti, valeva la pena farli ritornare. Sì, decisamente. Nelle chitarre, si sente proprio quel gusto lì, quello un po' proprio, appunto, ora voglio dire Hendrix, perché quanti però neuroni ti porti via. Sì, è chiaro. E poi con l'aggiunta di tutto, insomma, di vari additivi e di vari aiuti, ecco, i prodotti erano questi. Questa è la citazione da Eli alle storie tese. Chiaro, avevo riconosciuto, di sicuro anche il nostro pubblico. Passiamo a un altro 33? Sì. Volevo solo, volevo solo aggiungere che questa band, comunque pur di breve vita, ma appare nel Festival dell'Isola di Wight. Ah, me ero dimenticato. Davanti a 120.000 persone, quindi... Era stato un festivalino niente male. Il 69, sì, era da esserci, valeva la pena. E quindi quello l'ultimo fu l'ultimo festival di Jimi Hendrix, tra l'altro, perché poi appunto muore poco dopo. E, però appunto, per quanto breve, insomma, carriera intensa. Come oggi è un po' il leitmotiv della giornata, a parte alcuni intense. Breve ma intensa, la vuoi chiamare così. Abbiamo trovato tutti i reperti così, sì, oggi. A parte, vabbè, appunto, qualcuno che si differenzia, tipo Manhattan Transfer, ma vabbè, così, per fare Poggio e Buca, per fa pari. Sì, io sapevo Poggio e Buca strada di merda. Sì, anche, volevo dire. Però si dice Poggio e Buca fa pari, quindi si prova. Si prosegue? Sì, facciamo sentire un altro un bel 33 che ci hai portato. Sì, e questo è anche questo, ora questa copertina non la perdo. Macellai del jazz. La copertina jazz. Bellissima. La copertina non la potete vedere, ma è veramente bella. E l'album è dell'84. Esatto. Scandal in Bohemia. E c'è un maiale a fumetti che gira l'angolo, un maiale jazz con gli occhiali sì, neri. Sì, decisamente, un maiale decisamente bebop, direi. Che gira un angolo con un coltello che lo insegue, tutto molto a fumetti, con il disegno della band, versione fumetti, da un lato. È molto carino, sì. Si va così, un po' a buio e... Io così, per andare al buio, farei sentire di questo Scandal in Bohemia la terza traccia, esatto, del lato A, che è Soul Happy Hour, The Jets Butchers, su Basement Records. Questa, anche se ha avuto un po' di problemi di giradischi, era Soul Happy Hour dei, sì, Jets Butcher. I Jets Butcher, conosciuti anche come The Jets Butcher Conspiracy o The Jets Butcher and His Secrets from Hell, è stato un gruppo, vabbè, Jets Butcher in realtà definito indie pop, però fondamentalmente fondato infatti, boh, le etichette lasciano sempre il tempo che trovano. Comunque, fondato a Oxford nell'82 da Pat Fish, che era appunto compositore e voce, e Max Elder, chitarrista. La carriera è abbastanza lunga, perché comunque cambiando di formazione, cambiando fondamentalmente, quello che è rimasto sempre è stato il fondatore Pat Fish, e gli altri si sono sempre un po' avvicendati. Però diciamo, per già all'inizio degli anni 80, pubblicavano comunque questo secondo Scandal in Boemia, e seguito poi da altri lavori. In particolare, appunto, li caratterizza un po' i testi molto, molto ironici, molto fondati sulle loro esperienze, su cosa gli succedeva, insomma, nella vita di tutti i giorni, e giocati appunto su questo, così, mettere alla berlina un po' decostruire il mito. In realtà questa che avete sentito di jazz vero e proprio c'ha poco, sì. Ma perché appunto The Jazz Butcher, no? il macellaio cioè quello che vuole fare a pezzi e che in realtà poi appunto prende magari degli elementi e così li contamina, li cambia. I loro brani, come vi dicevo, appunto venati un po' di umorismo nero, sono spesso omaggi, come anche alti, cioè a riferimenti culturali abbastanza fini, abbastanza interessanti, come per esempio Lode Harlan, scritta per lo scrittore statunitense Harlan Ellison, o non lo so, il brano dedicato all'attrice Shirley MacLaine, di cui il cantante era innamorato perdutamente, non corrisposto, si capisce perché era bellissima. Ma in generale, nel retro del disco, appunto, dei Jazz Butcher di Scandal in Boemia, ci sono proprio sono spiegati i titoli, cioè non tanto i testi, ma proprio questo Soul Happy Hour, definito An Important Personal Statement, oppure non lo so, c'è un brano che si chiama Just Like Betty Page, no? La famosa Betty Page, non sto a spiegare chi è, che appunto cifrato: Is this the sort of tune you can play to your mother? Cioè, è un genere di canzone che puoi far sentire alla mamma, proprio perché per la diva del burlesque Betty Page, e così via e via. Uno particolarmente carino che mi piaceva, Girlfriend, Concern a Number of Conflicting Feelings, cioè un brano che parla di molti sentimenti conflittuali. Sulle strane estati, appunto, e le strane fidanzate che sì, bene o male abbiamo avuto, e sì, le abbiamo amate tutte, le ci mancano tutte, e gli dedichiamo appunto questi brani. Quindi loro, insomma, erano buffi perché sotto ogni brano mettevano un po' più che il testo, che cosa significava per loro. E abbiamo altri, dalla collezione trafugata al genitore, ho altri vinili dei Jazz Butcher, quindi vuol dire che a mio babbo evidentemente gli piacevano quantomeno, o forse era così disperato da avere me piccolina negli anni 80 e si buttava su comprare i dischi perché così, per sopravvivere alla disperazione. E quindi questo, hanno proseguito parecchio, non credo, non lo so se sono ancora in attività, però hanno avuto una carriera abbastanza lunga e direi abbastanza proficua. Si sono sciolti addirittura nel 2000, ecco, quindi sono andati avanti parecchio fino al 2000, anche con loro, varie formazioni, come vi dicevo, con vari, c'era un po' questo leader despota, mi sa, appunto Pat Fish, che era il fondatore e che poi aveva via via cambiato i vari componenti, come spesso succede in questi tipi di progetti. Sì. Come si dice sempre, i grandi geni sono anche assolutamente dei despoti, sempre, con le persone con cui lavorano. È chiaro, infatti, soprattutto poi via via si sale sempre di più. E quindi adesso invece cambiamo... Io invece, ovviamente, per ritornare ai 45, ne volevo mettere uno che proprio non c'entrava niente, perché questo è lo spirito di Basement, chiaro, che ci piace saltare di fallo, schizofrenia completa a mani basse, come diceva Woody Allen, ero schizofrenico ma ora stiamo benissimo. ora stiamo benissimo. Siamo due, quindi quattro. E questo è un pezzo estremamente estremamente pop, magari se vi dico il nome e vi dirà poco. Infatti sono Tommy James and the Shondells. Uno dice, ma che sono? Però, no, secondo me, quando... In realtà... No. Ora vi farò capire, perché sicuramente li conoscete, che questo è un pezzo famosissimo in ambito pop, Crimson and Clover, e questi sono Tommy James and the Shondells, qui a Basement Records. Stefano, tu l'ha finito questo 45. Glissiamo, perché mi sembra così. Mi sembra che è famosissima, sì. Vabbè, questa tanto canzone. Avete capito che pezzo è, si sa, sì. Tutti mi sembra abbastanza finita da quante volte è stato messo questo è un pezzone, questo 45, quindi soprassediamo. Sta facendo l'effetto Futurama, sigla di Futurama. Ma sì, però stavolta non voluto. Non voluto e non va bene. Comunque abbiamo capito, insomma. Avete capito, sì, qual era la canzone. Crimson and Clover, rifatta tra l'altro da... Insomma, in numerose occasioni, in varie cose. L'hanno rifatta un po' Cani e Porci. Sì, sì, tutto. Un pezzo famosissimo, se non mi sbaglio, della fine degli anni 60. Sì, del 69, 69. Sì. E questo è stato veramente in classifica per anni, penso. Per mille mila, sì, proprio. Perché veramente leggevo, sì. E questa, appunto... abbiamo il lato B anche, abbiamo però il lato B che speriamo, forse secondo me può andare meglio. È un genere completamente diverso, perché appunto inizialmente loro facevano questo genere molto da classifica, molto pop, certo. Però a un certo punto della loro carriera sono stati folgorati sulla via di Damasco. E sentiamo questa Do Something to Me, che se non mi ricordo male è già del loro, diciamo, della loro fase successiva, se non ricordo male. Sì, è un po' decisamente diversa da Infatti Crimson del 68, non a caso, e... dell'anno, appunto, prima, ma comunque stava già facendo, sì, vedere dove volevano andare dopo. Però... E queste sono sempre Tommy James and the Shudells, e questa è Do Something to Me. Yeah. diciamo che andava meglio, ma anche in questo lato B tutti gli oltre 40 anni di questo vinile si sentano proprio tutti, direi. Che possono venire tutti bene, insomma, a un certo punto sono usati, se no se ve li sentite su questo, YouTube. E questo mi sembrava anche usato bene, perché deve averlo messo su proprio diverse volte. Mi sa che gli piaceva, sì, perché anche questo lato B era parecchio consumato, però insomma dava l'idea. Sempre meglio di come era messo il lato A. Beh, peggio non c'è mai fine. Però sì, insomma, si capiva appunto un po' così la schizofrenia dal lato A, molto pop, molto bubblegum, molto di Crimson and Clover. Ah, questa invece che aveva proprio tutto un altro piglio. Esatto, aveva proprio un piglio diverso. Ma anche perché appunto leggevo che questa etichetta da artista pop, come si dice tra virgolette bubblegum, ovvero per i giovani era... Cioè, sì. Che faceva musica per i giovani, era proprio un'etichetta che... Non se la sentiva proprio per niente sua, e quindi ha voluto dare questa svolta, sì, oltretutto, poi al suono anche nella sua averne ora di bubblegum, così sì, insomma, no, per carità, Crimson and Clover, ci mettere la firma odierno, qui appunto leggevo, le mani, esatto, tra gli appunti che appunto dal tardo 68 il gruppo cominciava a scrivere le proprie canzoni alternando appunto un po' così l'aspetto più pop a quello invece più psichedelico, un po' più sperimentale, le canzoni appunto che abbiamo sentito sono state registrate e mixate da Bruce Staple, che introdusse un po' in studio l'uso degli effetti un po' come il delay, il tremolo, quindi gli dette questa fu fondamentalmente il fonico a introdurre questi, un po' come seguendo la scia di, sì, Phil Spector, insomma. Sì, perché comunque la scuola di Phil Spector era un po' anche il periodo, quindi sì delle prime sperimentazioni, ma anche proprio studio. Post, cioè appunto non live, ma non solo live, ma proprio di post produzione, nella post produzione gli si poteva appunto dare un'impronta piuttosto un po' che un'altra rispetto a come era il pezzo, chiaramente rispettando la natura del pezzo, però è un po' in questo momento che si cominciano a vedere come i primi effetti tecnici possano influenzare più o meno e dare dei risultati diversi a seconda come venivano applicati sui pezzi. Però mi sembra giunto il momento di mettere il prossimo, esatto, 33 giri. E questo che ci hai portato, devo dire, sono andata un po' a scatola chiusa, perché mi piaceva un po' così, mi sembrava così, mi piaceva il mood, le vibrazioni che mi dava, però non li conosco benissimo e volevo provare, infatti ho detto vabbè, proviamo con The Water Boys. L'album è Fisherman Blues. E anche qui già dalla copertina, dalla guaina del disco si capisce un po' già da che parte siamo, così strumenti, violini, mandolino, strumenti anche un po' vecchia scuola, diciamo. Tradizionali, sicuramente saranno usati in maniera così consona, esatto. Quindi scegliamoci una traccia già scelta. Eccoci, va bene, è un passo avanti, vedi, il maestro mi batte sempre, io lenta. Quindi allora vai, hai scelto, allora sentiamoci la prima traccia di questo album, tra l'altro del 1988, quindi ancora anni 80, sul finire degli anni 80, e questo è proprio il brano omonimo dell'album, che è Fisherman Blues, e quindi degli Water Boys. Andiamoci subito a sentire Fisherman Blues, il blues del pescatore, ovviamente sempre su Radio Womba. Tante volte me l'ho scordato, un attimo. E chiaramente su Basement Records. Meno male che non ha detto l'altra trasmissione. Per farvele, era proprio, sì, sì, è violenza tipo, psicologica, è come l'ipnorospo, a proposito di Futurama, l'ipnorospo è così, esatto, e lui uguale. È così, sì, sì. Voi non lo vedete, ma c'ha proprio gli occhi incandescenti, con la spirale dentro. Chiaro. The Water Boys. Allora, forse un po' l'avete riconosciuta, perché questa parte di violino, il violino così col tema, così, boh, secondo me è stato così abbastanza famoso. I Waterboys, appunto, gruppo musicale fondamentalmente, definito rock scozzese, ma vabbè, qualunque cosa voglio dire, vabbè, comunque folk rock, fondato nell'83, folk rock già mi piace di più da . Mike Scott, e il nome del gruppo è interessante perché il nome del gruppo veniva da un verso di The Kids, canzone contenuta nell'album Berlin di Lou Reed, quindi il nome Waterboys era una citazione di un verso di The Kid di Lou Reed, del Louridissimo. E quindi, insomma, il gruppo appunto ha poi attraversato più stili musicali, anche grazie al contributo di molti artisti che si sono avvicendati all'interno della formazione e che hanno collaborato appunto con il fondatore Mike Scott nei vari anni e quindi nelle varie versioni, come si diceva prima, no? Questi gruppi molto composti, molto oggi. Questo è un po' il leitmotiv di oggi. Gruppi composti. Dovevano essere in diversi, una bella perché formazione. Perché poi dipende, non in tutte le tracce ci sono tutti gli strumenti, però c'era un sacco di strumenti, almeno in questo album che abbiamo noi. E così passano un po' dal rock dei primi anni al folk appunto di Fisherman Blues, che è un po'... questo abbiamo sentito un po' più folk rock, con il blues reinterpretato un po' in chiave folk, per poi tornare negli ultimi tempi, così nelle produzioni più tarde, a proprio al folk rock più classico, quindi allontanandosi un po' dall'uso tradizionale degli strumenti, no? nord inglese, ma scozzese, irlandese, e tornando un po' più al folk rock. Infatti, il gruppo poi si scioglierà nel 93 e si riformerà negli anni 2000. Mi ricordano molto i Modena, eh? Ah, sì, cioè le Modena gli piacerebbe, perché i Modena vengono da quella roba lì, chiaramente, certo. No, tutta il filone, ma allora i Whiskey Trail così più nostrani, tutto quel genere, un po' più famosi, sì, che attingono a quel repertorio lì, e loro appunto Waterboys cominciano un po' più, sì, loro scozzesi, però in generale con questi strumenti, appunto il violino, i mandolini, e chiaramente fanno subito collegamento anche se poi appunto come si leggeva, ora noi abbiamo quest'album qui, però andranno poi in realtà verso una deriva un po' più rock, un po' più folk rock, col passare del tempo. Ci sentiamo un'altra traccia, così, sì, giusto, sentiamoci per... selezionerei World Party. Sì, World Party, perché è un po' più composta, cioè insomma l'uso di più strumenti, anche una tromba, e sempre dal lato A di questo disco. Sentiamoci questi Waterboys con World Party, il loro senso di party. Basement Records. We'll be right back. E questo invece, appunto, come si diceva prima, era già una traccia un po' più tra l'altro rock. Guarda, mi è piaciuta tantissimo ti ringrazio di aver portato questi Waterboys. Waterboys, sì, ora che li risento mi è piaciuta parecchio quest'ultima world party. Era un po' perché c'aveva un po' più organico, poi il violino diventa un po' più, no, prende il secondo un po' piano. Sì, entra più la chitarra, in più anche le parti era un po' più elettrica, più roccheggiante rispetto al folk della prima. Ma appunto, perché come si diceva, loro hanno un po' questa doppia anima, appunto, un po' a seconda un po' degli schizofrenici. oggi schizofrenia, portaci via. E però sì, questi Waterboys, che sono ancora in attività, leggevo, ora sicuramente con formazioni cambiate nel corso degli anni, però insomma hanno avuto un discreto successo dall'83 ancora fino a oggi, soprattutto chiaramente in Inghilterra e paesi così nel nord Europa. Però sì, molto interessante, soprattutto quest'uso questo passaggio dal folk un po' più tradizionale fino al folk rock, quello un po' più elettrico, un po' più così, un po' più sperimentale, sperimentato. Ci sono piaciuti molto, magari li ritireremo fuori con altri vinili. Assolutamente sì, me li voglio risentire. Con altri dischi, insomma con la produzione successiva. E invece adesso, così in conclusione di questa puntata di oggi, che ai voi ormai è sul finire, cosa ci presenta il maestro? Lo vedo che scartabella, lo so cosa cerca. Scartabella perché ovviamente ho cambiato idea in corsa. Cioè, lo sapevo, mi frega sempre, no, mettiamo questo, sì, e poi... E invece non era vero niente. Come malefico lei, signor maestro, guarda. E mi ha messo in difficoltà a me per primo, così, perché dice, cioè, ma questo mi piace di più, aspetta. Sì, perché lui, ha capito, con i dischi è un po' come i bambini nei negozi di caramelle, se lo lasci libero un minuto è finita. Come nella casa di Hansel e Gretel. Ha già tirato fuori, capito, un'altra cosa. E quindi, vabbè, io cerco di stare al passo, anche perché è il mio primo basement record, quindi cerco di cavarmela. Accidenti, alla grande mi sembra, te la sia cavata. Grazie, non sono nemmeno troppo in forma, guardi, se mi trova in forma ancora meglio. Non voglio immaginare questa cosa, guarda. Comunque, se ha deciso, maestro, che cosa mette? Sì, ho deciso perché dopo gli Waterboys mi era venuto in mente di fare la chiusura con qualcosa che vi aspetterà nella prossima puntata di Basement Records. Quindi non lo diciamo, che era qualcosa di completamente diverso. Che era ovviamente qualcosa di assolutamente diverso, però come chiusura, come ultimo disco di stasera, invece ho scelto questo disco del 1972, questo 45 del 1972, sperando che sia meno consumato di Crimson and Clover. Stiamo bene. Ma così a occhio sembra proprio di sì. Incrociamo le dita. Anche perché insomma molto molto meno famosi. E questi sono un gruppo di Chicago. Cioè, almeno io non li conoscevo, e sono proprio un classico Chicago soul di Chicago 100%. Southside. E loro sono i Brighter Side of Darkness con I'm the Guy. Ovviamente Radio Wombat Basement Records. mother saw me jumping rope and I felt so bad. I told them you had tricked me and that was all. Then I went across the street to play baseball. Questo era proprio classico soul di Chicago con i Brighter Side of Darkness. Formazione che è durata abbastanza poco. Tra l'altro il leader vocale di questa band aveva roba tipo 12 anni. Sì, infatti senti la voce sente, bianca proprio. Abbastanza bianca, sì, come voce. E hanno avuto anche un successo di classifica. Sì, si formarono nel 71 in questa scuola superiore, la High School di Calumet in Chicago, Illinois. E erano appunto, come dicevi te, giovanissimi, evidentemente si sente anche dalla voce, che andava però all'epoca appunto questa voce così un po' in falsetto, un po' alta. E gli altri membri appunto comunque giovani, perché si erano conosciuti a scuola, e ebbero un discreto successo per un periodo. Appunto rilasciarono questo singolo Love Jones nel 72, tra l'altro era il lato A di questo singolo. Esatto. E invece abbiamo ascoltato il lato B, perché Love Jones è veramente roba da glicemia a livelli tipo 4.500, è roba pesa, sì, proprio. Però, insomma, insulina inframuscolo, era a un livelli. Po' il sound, così, il sound pop del periodo, e andava così. Questo invece questa era un pochino più sì era un po' più soul classico, ispirato più al doo wop, mentre quell'altro era proprio meramente strascicone, pop, va bene, da ballo scolastico proprio. Sì, ho capito, va bene. Ma noi ci siamo ascoltati quest'altro, appunto Brighter Side of Darkness, anche solo per il titolo, vabbè, scusami, dai, no. Cioè varrebbe premio veramente anche solo per il titolo, del 72, esatto, sì. Su 20th Century Records, e questa era l'ultimo, il pezzo che il maestro ha scelto per chiudere, cambiando così le carte in tavola all'ultimo. Come sempre, i veri bari. Come il vero bar, il gioco delle tre carte. Cioè, a me proprio mi frega così, in maniera. Avremo ancora tanto da ammettere, da dirvi, ma faremo, perché no? Se il maestro mi rinnova l'invito, io tornerò con i miei dischini rubati, che ora vado a riportare. Sì. Perché se Babbo se ne accorge, passa una brutta serata. Però insomma, quando nessuno mi vede, riuscirò a ce li porta. Sì, a riprenderli dalla collezione, a trafugarli e a tornare qui e a contribuire a questa fantastica trasmissione. Grande Virgi! Sì, che mi piace molto e di cui sono così onorata di essere, così, di aver fatto il cameo, come fanno. L'onore è assolutamente di Basement Records, ci mancherebbe altro. Forse la cavalleria è morta, ma non a Basement Record. E quindi vi salutiamo. Sì, e vi auguriamo, come sempre, sul finale di Basement Records, un buon proseguimento di sabato sera. Tra l'altro, questo sabato sera c'è un sacco di cose da fare qui a Firenze, sì, e dintorni. Sì, sì. Quindi tenetevi informati anche sui nostri social, che abbiamo elencato prima. Non voglio dare promozioni casalinghe, ma c'è veramente un festone della Madonna stasera. Quindi appena avete sentire la trasmissione, lanciatevi fuori di casa. Sulla strada dell'Emerson, perché secondo me vi conviene. E quindi vi rimandiamo alla prossima puntata. E andiamo tutte a fare festa ora. Esatto. Che nel caso del maestro sarà, come si dice, io già mi sono già alzato le mani e quindi, chiedendo scusa in anticipo a tutti. Sì. Per preventivamente per come si ridurrà. Bene, d'altronde è così. Quando il gioco si fa duro, come diceva il vecchio Belushi, i duri cominciano a giocare. Oppure, come era uno dei vecchi detti di montagna di un po' di tempo fa, quando ti svegliavi la mattina e ti domandavi a quante persone dovrò chiedere scusa oggi. Bene. Speriamo di non dover chiedere scusa a nessuno domani. Speriamo di no. E quindi buon proseguimento su Wombat. Chiaramente. Sempre, e alla prossima. Un ringraziamento alla Virgi. Grazie a voi per avermi ospitato. Volta, assolutamente. Per questa fantastica Basement Record. E a risentirci. Appuntamento alla prossima puntata, che come sempre per Basement Records sarà in un giorno X, approssimativamente tra 15 giorni, però è la trasmissione pirata per eccellenza di Radio Wombat, quindi non sappiamo mai le eventualità che potrebbero esserci. Colpisce nella dietro. Notte come la primula rossa, quando arriva così. Esattamente. Buon sabato sera a tutti. Ciao a tutti. Viva Wombat. Wombat. Radio Wombat.